America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Mitt Romney al contrattacco. Dopo la sconfitta bruciante, devastante in South Carolina, il candidato che finora era stato il candidato di testa, ora sotto minaccia di Newt Gingrich, ha attaccato i suoi concorrenti diretti. You're going to look over his record and say, well, he's not so conservative as a reliable conservative leader as people might have imagined. But Romney ci ha dato un assaggio di quel che dirà probabilmente nel dibattito di questa sera. Ci sarà un dibattito chiave a Tampa in Florida. Ricordiamolo, Tampa è dove si terrà la convention repubblicana. Ma questa notte ci sarà il primo confronto diretto dopo la South Carolina in un dibattito che si preannuncia alquanto interessante. E dunque Romney, prima linea d'attacco: Gingrich non è un vero conservatore, ha attaccato Cantor, Eric Cantor, il capo della maggioranza alla Camera, che aveva fatto una proposta per tagliare la spesa pubblica. Dunque si trova non in sintonia con la leadership di oggi in Congresso, una leadership espressione di una base molto conservatrice, di una base vicina ai Tea Parties. Secondo attacco: I don't think that the people of this country are going to choose as the next president of the United States a person who spent 40 years in Washington as a congressman and a lobbyist. Non credo che gli americani siano pronti, ha detto Romney, a mandare Gingrich alla Casa Bianca, a mandare alla presidenza degli Stati Uniti un uomo che è stato per 40 anni a Washington come deputato e come lobbista. Beh, Gingrich è vero, è stato un lobbista, ha lavorato per Freddie Mac, una delle agenzie che riscattava i crediti immobiliari, si è trovata al centro degli scandali immobiliari. Dunque per Romney ci sono parecchie cartucce da sparare, si tratterà di vedere se le farà in modo diretto. Il suo problema è stato sempre quello di mandare avanti gli altri, di non scontrarsi direttamente con i suoi antagonisti per non apparire troppo aggressivo. Beh, Gingrich non si è preoccupato di queste fisime e invece ha attaccato durissimo. Qualcuno ha detto che Mitt Romney non è bravo ad incassare, ha una mascella, diciamo, di vetro. Ebbene, questa sera dovrà dimostrare di avere una mascella d'acciaio e di essere in grado di restituire i colpi uno per uno. Nel frattempo i sondaggi in Florida, sondaggi rilevati dalla CNN dopo il voto in South Carolina, restano a suo vantaggio, perché Mitt Romney è in vantaggio in Florida nei sondaggi con il 40% del voto, segue Santorum con il 19% e poi Gingrich al 18%, Paul è il quarto. Dunque in questo momento Romney ha un vantaggio piuttosto ampio, quasi 20 punti, anzi 22 punti per essere precisi, su Newt Gingrich, il doppio di quello che aveva in South Carolina. Sembra impossibile che possa perdere anche la Florida, eppure in 4 giorni il quadro in South Carolina è cambiato completamente, proprio per i dibattiti di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Mancano 8 giorni al voto in Florida e dunque in 8 giorni abbiamo visto, in questo momento di grande volatilità dell'umore degli elettori, beh, può succedere davvero di tutto. I will release my tax returns for 2010, which is the last returns that were completed. I'll do that on Tuesday of this week. I'll also... Ecco, qui invece Romney affronta gli errori. L'errore principale, dice, è stato quello di non essermi occupato delle mie tasse, di aver perso tempo sulla questione delle tasse. Lui pensava di poter rimandare la questione delle sue dichiarazioni del reddito ad aprile. Ebbene, ha annunciato ieri che martedì, domani, rilascerà queste sue dichiarazioni fiscali con largo anticipo. Ci sono alcuni elementi controversi, come già sappiamo, in queste dichiarazioni fiscali. La prima paga un'aliquota del 15%, bassissima. La seconda dà il 10% del suo reddito alla Chiesa dei Mormoni. Ecco, di nuovo, questo potrebbe suscitare qualche preoccupazione nell'elettorato americano. We don't need another legislator in the Oval Office who does not know how to use executive authority. We need an executive, someone who both in private sector and as a governor. Infine Chris Christie, una bordata contro Gingrich, un attacco violentissimo. Ieri il governatore del New Jersey, amatissimo dalla destra, si è schierato al fianco di Romney, lo aveva già appoggiato naturalmente in queste elezioni, ma ieri ha avuto un intervento pubblico a Meet the Press, uno dei programmi televisivi più seguiti. il programma della NBC, che modererà tra l'altro il dibattito di questa sera. Ebbene, Christie ha detto: non ci serve un altro burocrate come Gingrich nell'ufficio Oval, non ha capacità dirigenziali, abbiamo bisogno di un manager che abbia esperienza nel settore privato come governatore Gingrich. Questa esperienza non ce l'ha ed è stato più volte un imbarazzo per il Partito Repubblicano. Attacco durissimo. Ecco, è lungo questa linea d'attacco, divisa su quattro fronti diversi: quello di Gingrich non conservatore, quello di Gingrich non affidabile alla Casa Bianca, quello di Gingrich che è un imbarazzo per il partito, e quello di far chiarimento finalmente una volta per tutte sulle sue dichiarazioni fiscali, che Mitt Romney cercherà di rimettere sui binari la sua campagna deragliata nella fermata della Carolina del Sud. America 24. I have more work to do on my recovery. I will step down this week. Notizia importante di ieri: Gabriel Gifford, l'avete sentito, le puntate dell'Arizona, che l'8 gennaio del 2011, oltre un anno fa, è stata ferita quasi mortalmente per un attentato durante un suo comizio, ha annunciato che darà le dimissioni dal Congresso per dedicarsi alla sua riabilitazione. Un momento, devo dire, piuttosto emotivo. Tutti ricorderete il dramma di quell'attentato in cui morì una bambina che era nata l'11 di settembre del 2001. We stand here in the name of freedom. At the heart of that Western freedom and democracy is the belief that the individual man, the child of God, is the touchstone of value. Una voce ispirata, l'avrete riconosciuta, la voce di Bobby Kennedy, il fratello del presidente ucciso, a sua volta ucciso nel 68 da Shiran Shara Shiran. Bene, la figlia di Bobby Kennedy, Rory Kennedy, ha fatto un documentario sulla madre, Ethel. Ethel Kennedy divenne un simbolo in America, un simbolo di resistenza, madre di 11 figli. E Rory è nata proprio nel 68, l'anno in cui è morto il padre Bobby, assassinato. E dunque Rory intervista la madre. Il documentario è stato presentato a Sundance Festival in questo weekend, uno di quei documenti storici straordinariamente interessanti che fanno da collante a questo paese. Un altro collante di questo paese è il football americano. Bene, siamo arrivati alle finali, la finale del AFL, American Football League, la finale del NFL, quattro squadre, le squadre che hanno vinto andranno alla finale del Super Bowl. E chi ha vinto dunque? Beh, abbiamo avuto da una parte i Ravens contro i Patriots e lì hanno vinto i Patriots, dall'altra parte abbiamo avuto i Giants contro i 49ers di San Francisco. I Giants, ricordiamolo, sono la squadra di New York, hanno vinto i Giants. Grande finale dell'East Coast, Patriots contro i Giants il 5 febbraio a Indianapolis. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. NPR, National Public Radio, ha selezionato i gruppi emergenti, i gruppi più promettenti della scena musicale americana, di cui giurano sentiremo parlare nei prossimi anni. Eccone uno, sono di Austin, Texas, si chiamano i Quiet Company. You, Me and the Boatman. To be a man, but even Boatman knows it, so but he still has to do his job. I know it's tough. I know it's tough. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.